Barisone è diventato vicepresidente, no? Crucia, è inutile che lei fa il saputello, lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'ha a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Let the body set the floor. Parezzo, non si entra nell'angolo rotturo della zanzara. Parla degli immigrati che non li ha mai visti, non li ha mai visti, come non li ho mai visti io, se non qualche volta per strada, ma in macchina, la mia bella berlina, quindi a me degli immigrati non me ne fotte un cazzo, non me ne fotte un cazzo, cazzo, cazzo. L'ho detto anche durante una trasmissione da lui condotta, quindi non è il problema, io non ce l'ho con gli immigrati. Se però dopo il flusso migratorio raddoppia la TBC, non posso dare colpa agli svizzeri, non posso attribuire la responsabilità agli austriaci o ai tirolesi. Tu vivi negli studi televisivi, la realtà non la vedi mai, se non attraverso delle telecamere del cacchio. Cacchio. Caspita, ma è chiaramente razzista, Parenzo. Gli africani sono africani, cioè sono persone che purtroppo hanno dimostrato di non avere una gran cultura del lavoro, tant'è che vivono nella merda. Merda. Naturalmente. David, adesso ti leggo alcune frasi pronunciate da un uomo politico, anzi da una donna in questo caso. Voce alta, mi raccomando, perché sei in collegamento da Camogli, dunque devi alzare la voce, sei al telefono. Camogli, sì, in Liguria al Festival della Comunicazione. Benissimo, con benissimo, fermo lì, poi diremo. Intellettuali, come al solito, il tuo mondo. Magistrati, Gherardo Colombo, il presidente del Senato Grasso, insomma potremmo citarli quasi tutti. No, non li citiamo, Colombini, non li citiamo, non li citiamo. Il professor Massimo Recalcati, abbassate la voce, ecco, bravo. Allora, ti recito la frase pronunciata da un politico. Mi devi dire, anzi dovete tutti fare uno sforzo, indovinate di quale partito è questa persona. Allora, la frase è questa, è rivolta e basta con sta tosse, hai rotto i coglioni. Sono 4 giorni che c'è la tosse. Ti vedo in televisione, non c'è un attimo di tosse. Vieni qui e ci vomiti tutta la tosse possibile e immaginabile. È insopportabile. Ma non sai cosa mi è successo? Ho fatto un viaggio in un brevissimo tratto usando il cosiddetto trasportapoveri, cioè la metropolitana. C'era un immigrato, sicuramente ho preso la tubercolosi, sicuramente. Trasporta poveri la metro, incredibile. No, ho usato la tesi dei giornali tipo Libero. Se prendi la metropolitana e c'è un immigrato, devi stare attento che se tossisce prendi la tubercolosi. Beh, è possibile, se uno ha la tubercolosi te la può attaccare. Non mi pare strana cosa come cosa. Dite? Ho la tosse perché ho dormito mezzo nudo ieri, per quello la tosse, non per gli immigrati. Allora, ragazzi, la frase è questa: gli stupratori di Rimini li costringano a tagliarselo e a mangiarselo. I poverini fuggiti dalle guerre, bisognosi di accoglienza e affetto, in alternativa dateglieli in cura a casa della Boldracchia. A quale partito appartiene questo assessore che ha pronunciato questa frase? Secondo te, Parenzo, a quale partito? No, beh, la scelta, diciamo, potrebbe essere Lega Nord. Potrebbe essere Fratelli d'Italia, Casa Pound. Potrebbe essere Casa Pound, potrebbe essere Forza Nuova, ma non è al governo da nessuna parte. Potrebbe essere forse anche qualcuno del Movimento 5 Stelle. E infatti è del Movimento 5 Stelle, ecco. Assessore Grillino a Venaria in Piemonte, ragazzi. Claudia Nozzetti, 5 Stelle, 5 Stars. Ripeto, gli stupratori di Rimini li costringono a tagliarsela e a mangiarselo. Questa frase qui li costringono a tagliarselo e a mangiarselo, cioè tagliate l'uccello agli stupratori di Rimini. Secondo me è una frase molto molto popolare. molto molto popolare. Io sono sicuro che il 90% delle persone che ascoltano la Zanzara, ma non solo, il 90% degli italici, dei cittadini italici, io non sono, non ho detto che sono d'accordo o no, faccio Jerry Springer in questo caso, cioè secondo me il 90%, il 90% degli italiani vorrebbe l'evirazione con l'uccello, l'evirazione dell'uccello degli stupratori, con le forbici dell'uccello. Ma non vuol dire è che così. Roba... Ma io non sto dicendo che è giusto, è sto dicendo bestiale, che il 90% degli italiani vorrebbe tagliare l'uccello agli stupratori di Rimini, chiaro? È chiaro o no? Io dico che è questa la situazione, inutile stare a chiacchierare. La situazione è questa. Allora, a proposito, caro Parenzo, il signor Costantini, appartenente a Forza Nuova, sostiene che vuole andare in strada con il contropotere delle borgate, i tassisti e i pugili in prima linea. Costantini, Forza Nuova. Questa è una pagliacciata, però uno può anche fare delle pagliacciate, ma chi se ne frega delle pagliacciate? Ma sì, ma facessero quello che vogliono, so adesso che hanno proibito la manifestazione a Roma il 28. Ridicolo, sbagliato, sbagliato, sbagliatissimo. Libertà di espressione, di manifestazione, anche per Forza Nuova. Ma chi se ne frega, dai. La marcia su Roma, quando avvenne la marcia su Roma? Vabbè, chi se ne frega, che dai. Avvenne la marcia ce su Roma? Ce ne freghiamo, la gente se ne fotte. Se allora, ne fotte. Questi peraltro sono anche dei conigli e dei codardi, perché siccome giocano con le parole, anziché avere il coraggio di dire marcia su Roma, hanno messo marcia, come l'hanno chiamata, dei patrioti. Ma è uguale, gliel'hanno vietata lo stesso. Marcia dei patrioti, credo, perché l'hanno messa del giorno, siccome la gente non è stupida, allora, l'hanno messa del giorno della marcia su Roma. David, io ti dico una cosa, quando uno è veramente democratico, è veramente cuore la libertà. La libertà vale legge. Anche per i pagliacci e per i fascisti, chiaro? Una legge, la libertà, una ma legge. Non me ne frega niente. Allora, anche legge, tu non hai rispetto per quelle persone che sono morte durante il fascismo. No, ma io non hai idea. Ma se in Germania, secondo te sarebbe possibile che dove, ma chi se ne frega vista? Della Germania? Io sto dicendo voglio dire, la Germania è un paese democratico. Senti, David, credo, c'è no? una sola cosa che ti voglio dire. Quando ma uno in Germania dice sarebbe possibile dovrebbe... fare nel giorno della notte dei cristalli sì. una marcia per la notte allora, dei cristalli. Ma non me ne frega niente a me. La cosa fondamentale è un'altra. Se dovrebbero arrestare ogni secondo uno che dice sono fascista, secondo il tuo ragionamento. No, siccome non avviene, siccome non avviene, è tutta un'ipocrisia. Se cominciano ad arrestare tutti, allora uno può ragionare. Ma siccome non hanno mai arrestato nessuno quando uno ha detto una cosa del genere, non rompessero i coglioni. Libertà pure per i fascisti di esprimersi. Chi se ne frega? Libertà di manifestare. Libertà per tutti, anche per quelli che dicono che le camere a gas non sono esistite. Lo sai come la penso io? Se uno dice è un coglione, le camere a gas non sono esistite, è un cretino, un coglione, ma deve essere libero di dirlo. Qual è il problema? Non capisco qual è il problema. Dobbiamo avere paura di quattro pagliacci che vanno in giro con i vestiti di bianco per Roma con quattro bandiere. Sono quattro gatti, quattro pagliacci. Non è paura, è applicare la legge. Allora, questo Costantini comunque dice non rinneghiamo il fascismo, sono fascista. Arrestatelo allora, se siete coerenti, avete vietato la manifestazione, arrestatelo. E se ci vietano perché siamo fascisti marceremo uguali, perché io sono fascista e noi non abbiamo mai né rinnegato né voltato le spalle a quel periodo storico che ha reso la nostra patria grande, immensa. Ma questo è un pagliaccio, non è uno pericoloso, è semplicemente un pagliaccio. Cioè, essendo un pagliaccio, essendo folklore, il folklore è come vai ad andare a una sfilata, a una parata militare, oppure è una finzione. C'è una piccola differenza, dai, che non su. Si può fare. Ma chi te l'ha detto? Ma fino adesso hanno fatto di tutto, differenza. Dai, su. Allora, ti voglio far sentire, senza distruggere l'ascolto, quello che dice D'Alema di Minniti. E la cosa è abbastanza incredibile, cioè non è incredibile, è coerente con la situazione politica adesso. Dice, Minniti non è un politico ma un militare. Un no, militare. Sì, un militare. Senti, non vuoi eccessivo, senti, perché senti. È il suo compagno di partito. Ex, sì, ex. Fino a ieri. Tra l'altro viene dalla famiglia dei militari, diciamo, ha mantenuto questo un po' l'origine familiare militare, un po' la formazione comunista che ha anch'essa un tratto militare, diciamo, ne hanno fatto un militare. Lo dice anche in senso dispregiativo, cioè un militare non un politico, uno che risolve delle questioni militari, tant'è che dice che ha tanto cinismo, però a noi, a me in particolare, il pelatone piace, il signor Minniti. Signor Minniti, io lo vorrei in questo momento presidente del Consiglio. Ricorda un po' anche, capito? No, lui, assolutamente, mica per quello, no? Ma chi se ne frega, anzi, tutt'altro. Ma va, te ne va. No, ma a me Minniti non dispiace, è un bravo ministro degli interni, è una persona molto molto seria. Crozza su Minniti, vai. La parola spezziamo le braccia ai migranti, non possiamo lasciarla alla destra. Se noi non picchiamo i neri, vince la destra che vuole picchiare i neri. Nei prossimi 10 anni, comunque vada, sappiatelo, amici neri, voi le prendete. Allora, poi ragazzi, adesso vi faccio sentire una cosa su questa vicenda dei vaccini, la marcia indietro di Zaia, ma non ce ne frega niente di queste cose. La solita Radio Gamma 5, Parenzo, il signor Girotto, che è un veterinario, credo, antivaccinista, il quale sostiene che la Glaxo sta mettendo a punto il vaccino contro la malaria, cioè non credono alla morte della bambina per malaria. Senti. Vabbè, ma questa è gente da veramente da non da arrestare. Senti, ti prego. Ma non voglio sentire. Senti. No, mi allontano, No, senti. No, me ne vado via, stacco un attimo il telefono. Senti. No, voglio sentire questo. Senti. Guarda caso, la bambina muore di malaria. No, la bambina stava morendo per conto suo di vaccinazione. È diverso e ne sono già morti degli altri con i nuovi programmi di vaccinazione di massa, pare, no? Cioè, ma tu ti rendi conto? D'altra parte, caro Parenzo, questo Girotto è supportato in questa follia, cioè la morte della bambina non per malaria, su cui stanno indagando, mezzo mondo sta indagando su questa cosa qua. Secondo questi pazzi è morta per le vaccinazioni la bambina. Ma gente spostata. Ho capito, ma non è più che altro si crea nell'opinione pubblica. Ma non è solo spostata, Tu vai a leggere quello che dice un ex giudice della corte, non so che cosa, dove è stato imposimato, la Corte Costituzionale, dove è stato un presidente merito della Cassazione, no? Ma ha fatto importantissimi nei processi. Allora, insomma, Ferdinando Imposimato, 5 Stelle, ormai ex 5 Stelle perché ha litigato con i 5 Stelle, dice: vabbè, se ma tutti invecchiano, però. Quindi, aspetta, se la bambina ha fatto i 10 vaccini e poi è morto, occorre accertare se essi siano stati la causa della morte. Io voglio ricordare che il signor Imposimato, che per carità è anche un personaggio divertente, anche un personaggio che ha la sua. Ma è stato un grande magistrato. Ma non lo so, grande o non grande, non lo so. Cioè, è uno che è stato candidato dei 5 Stelle alla presidenza della Repubblica. Se la bambina ha fatto i 10 vaccini e poi è morto, occorre accertare se si siano stati la causa della morte. Se tu lo dici, significa che un po' ci credi, no? Dai, su, ma trattasi di gente da ricoverare. Onde che chiudete, cornuti! 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre, a Genova. Vi presenta La Zanzara. No! Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Salve, io mi chiamo Garofalo Salvatore, nato a Palermo il 6476, residente a Como e mi dichiaro fascista 100%. Un umile pensiero al signor Parenzo. Senta, le do del lei, senta, io non voglio offenderla e neanche dirle tutte le parolacce che potrei dirle, ma le voglio soltanto dire che ogni giorno prego Dio che le mandi qualcosa di serio. Sono sicuro che prima o poi Dio esaudirà le mie preghiere. Con questo la saluto e vado a fare in culo. Scusa David, ma avresti piacere di interloquire con questo personaggio? Guarda, io no, nel modo più assoluto, io non ho deciso quest'anno, per questa edizione, non interloquirò mai più con questo genere. Io voglio parlare con... Devi combattere con questo. Selezionare le persone con cui dialogo. Prego, Edoardo Camurri. Prego che arrivi un male. Un altro cretino che scrive, un tale Marcello: Cruciani è ignobile, titilla gli umori più fetidi e non filtrati della cloaca fascistoide per mezzo punto di share. Stasera, ad esempio, sarò a cena con Nicoletta Braschi. L'idea della libertà e dell'etica che ha è marcescente. Ma come cazzo scrive questo? Ma parla come mangia, Marcello. Parla come Fusano. Titilla gli umori più fetidi e non filtrati della cloaca, ma dai. Questo è vero. Michelangelo da Milano, vai, Michelangelo. Questo è vero. mi aggancio a quello che diceva proprio questo, sì, questo cretino. Io, guarda, Cruciani, io da 4 anni che ti ascolto, sì, e allora sono arrivato alla conclusione che tu hai creato una trasmissione in cui la Facebook della radio... Ottimo, è un complimento questo capo. No, infatti è un complimento, dove... Oppure, se vuoi, anche il microfono aperto di Radio Radicale. Ottimo, cioè, dove ottimo. Mi stai facendo godere adesso. Adesso mi tocco di questo, cioè. Ma perché il tuo modo, ma non è il tuo modo, è proprio quello che ci ascolta, è terribile, perché tutto è messo, fra virgolette, scusa la volgarità, in vacca. A parte che non è vero, perché sono due ore e mezza, tu non ascolti mai. La questione dei vaccini, la questione dei vaccini. Che cos'è che abbiamo buttato in vacca? Tu non c'entri niente, tu sei il protagonista di questo share che sta aumentando per la tua giornata. Non lo so, non c'è una rilevazione quotidiana per te, perché tu hai creato sicuramente un rinnovo del contratto. Non c'è nessun contratto da rinnovare. Il tuo share dell'anno scorso è andato benissimo, perché lo guardano tutti. Posso dire che allora, purtroppo non è così. Non è purtroppo così. Vabbè, ma che vuoi, Michelangelo? Non ho capito che cosa vuoi. Dopo no, questa disamina, dopo questa realtà è terribile. Capisci o no? Ma è terribile la realtà. La realtà ogni tanto è terribile. E noi la rappresentiamo. È quello che ha, guardano il male a Parenzo. E vabbè, è terribile, chi se ne frega. E allora? Ma tu li fai ascoltare. E tu li ascolti. E godi pure tu. Ma che c'entra? Ma che c'entra il bambino dell'asilo, cretino? Ma che c'entra? Arrivederci, grazie. Ma che c'entra il bambino dell'asilo, imbecille? Tu dirai chi... No, tu sei un imbecille. Ma che c'entra, ma che c'entra il bambino della sigla, imbecille? Cerca di coordinare le frasi. Coordina le frasi. Io non godo di niente, io rappresento la realtà. Che ti piaccia o non ti piaccia? Sì, la realtà è anche questa, dunque non ci rompere i coglioni. Ti vai ad ascoltarla? Sì. Quando mi va la contrasto. Se devi dirmi te quando la devo contrastare o quando non la devo contrastare. Sei tu a dirmelo. E allora come no? Stai giudicando? Sei così poco intelligente da non capire che io non ti sto giudicando. Senti, caro Michelangelo, hai chiamato dicendo che siamo il Facebook della radio, che rappresentiamo lo schifo. Sì, assolutamente, che rappresentiamo lo schifo, che siete inascoltabili, che eccetera, eccetera. Il fatto che le argomentazioni che tu poni è sempre è un o su un argomento chi se ne frega, perché la tua parola è chi se ne frega. Infatti, non ho capito bene, però articola bene, perché non si capisce quello che dici. Tutti gli argomenti quali? Bisogna andare nello specifico. I vaccini, che cosa? Vaccini. Ho letto una frase di Imposimato, ma di che parli? Di cosa parli? Ma questa non è la spiegazione, non è una trasmissione da spiegazione, non hai capito un cazzo. Ma non hai capito niente. Mai rotti i coglioni, Luca da Belluno. Luca, dimmi. Buonasera, Luca da Belluno, Cavartano. Sì, abbiamo capito, Luca da Belluno, l'ho già detto io, vai. Chiamavo per dire che, Cruciani, non devi lamentarti se le persone dopo attaccano la Boldrini, perché tu sei il primo che manda un orribile stornello che offende il presidente della Camera, che fa degli insulti in lingua partenope, e quindi non puoi dopo essere stato promotore che Una cosa sono gli attacchi anche forti alla Boldrini utilizzando il linguaggio della Zanzara, una cosa sono gli inviti alla violenza nei confronti di una persona, sono due piani diversi. Se non l'hai capito, a me non me ne frega un cazzo, chiaro. L'attacco è anche qualche volta l'invettiva, esiste anche l'invettiva, ma non so, io non ti posso spiegare l'italiano, capito? Non ti posso posso spiegare. Parenzo mi ha lasciato in questi 10 minuti da solo a combattere, che è una cosa un po' nuova. Ogni tanto, per fortuna, sì, la maggioranza silenziosa che ha avuto un mese ad agosto per elaborare tutto quello che ha, tutto questo odore che abbiamo dovuto respirare per un anno, si è risvegliata la bestia e finalmente si scatena contro la maggioranza del popolo. Io voglio capire da Luca che stracazzo vuole da me. Subito. Non devi più mandare. Sei un corruttore di costumi, cioè stai contribuendo al degrado morale di questo paese. Io tu non ti rendi conto. Vai, dimmi Luca, dimmi. Cruciani, volo molto più basso di Parenzo. Non devi più mandare quello stornello che dice alla Polvini. Io te lo rimando 100 volte quello stornello. Non è mica un invito istituzionale e non c'è niente di critico. È un'offesa gratuita. Ma lascia perdere, tutto qua. Non mi riferisco alle invettive tue. Quello stornello, non mandarlo più. Ma sono gli ascoltatori, ma io lo mando. Ma sei tu a dirmi quello che devo mandare a noi? È uno stornello meraviglioso. Protesta con l'editore. Sai che ti dico io, protesti con l'assessore, io lo sai che ti rispondo me ne sbatto i coglioni, chiaro? Non mi interessa. Marco da Trento chi se ne frega. Sai che faccio, Marco? Sai che ci faccio con la tua protesta? Mi ci pulisco le palle, capito? Marco da Trento, vai. Ciao, volevo dirvi due cose. Volevo innanzitutto dire che io sono un razzista, non lo sono mai stato, però lo sto diventando. Questa è il primo pilastro. Allora, stai diventando razzista, ci spieghi perché tra qualche istante, con il contributo, se vuole, senza tossire, oppure anche con la tosse, del signor Parenzo, scomparso negli ultimi 10 minuti perché voleva farmi restare con la bestia, provare di nuovo l'ebbrezza di combattere con la bestia in onda, capito? Fermo! Poltrini, scusami, sei una brava ragazza. Poltrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Poltrini, ed è morta. Il segnale orario vi è offerto da... Sei in ritardo. Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. Sei in ritardo! Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta La Zanzara. Volevo salutare Parenzo. Sì, Parenzo, come cazzo si chiama? Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. Come Macron. No, caro Cruciani, ti sei rammollito. Sei un rammollito, hai iniziato male questa stagione, sei un rammollito, ti sei filo parentizzato. Mamma mia, Cruciani, cambia perché così non va bene. Hai capito, Cruciani, che adesso si indispone perché Gino Strada usa la parola sbirro. Tu che fai parlare la peggio feccia dell'umanità, peraltro ha ragione, ma fai parlare le peggio persone, quello che taglia le palle con le motoseghe, quello che canta faccetta nera, quello che scoreggia. Questo qui che ha detto semplicemente ha un passato un po' da sbirro. Ah, non si può dire questa cosa. Dov'è la libertà qui adesso? Lui l'ha detta. Avrà la libertà di dire che secondo lui Minniti è un po' sbirro? Allora voglio spiegare a questo cretino, a questo imbecille, che ovviamente il signor Gino Strada ha tutta la libertà possibile e immaginabile di dire a Minniti che è uno sbirro. Noi qui, umili servitori della radio, umili operai del mezzo radiofonico, umili conduttori di questa trasmissione, chiamasi La Zanzara, che Parenzo dipinge come una sorta di cloaca, ma che è pur sempre no, una... No, peggio ancora, uno dei, diciamo che in tutti i posti ci sono luoghi mal frequentati, questo è uno di quelli. Va bene, ma d'accordo, va benissimo, io amo i luoghi... Anche in tutte le città, non è che ci sono soltanto i Parioli o San Babila, ci sono dei luoghi brutti, i bagni delle stazioni, ad esempio, sono brutti luoghi. Comunque, ripeto, il signor Gino Strada... Ma ha frequentato anche questo luogo, ovviamente. Può dire quello che vuole il signor Gino Strada, è liberissimo di dire quello che vuole. Noi semplicemente critichiamo l'utilizzazione, io almeno personalmente dico che dire a Minniti che è uno sbirro in maniera dispregiativa, e dire anche che manda gli immigrati a morire in Libia eccetera è una follia. Cioè, lo ritengo una cosa ridicola. Cioè, lo ritengo un attacco gratuito. No, non Miniti, non sì, è che Miniti ha detto. Come no? Ha detto a Miniti che manda la gente a morire in Libia, lascia la gente morire in acqua, in Libia, eccetera. Beh, eccetera. È vero che. No, non Miniti, no, ma lascia perdere. Che... No, non c'è bisogno che spieghi. Cioè, no, io dico, non è uno sbirro. Dopodiché è vero che quell'accordo è. No, ma non mi interessa. Ma non mi interessa il giudizio sulla cosa. Io sto dicendo Gino Strada. Non mi interessa sapere che è vero che cosa? I migranti cosa? Muoiono e vengono stupati. Ma come, ma come è sempre successo? Ma come è sempre successo? Facciamo l'invasione, allora, facciamo l'invasione della Libia. Cosa vuoi che no, ti dica? Mandato, Roberto da Roma, no, fammi sentire. I militari italiani va bene, dai. Comunque, se vuoi, approfondiamo. No, non voglio vuoi. Approfondire. Roberto non da voglio Roma, approfondire. Voglio dire semplicemente che non mi stupisco della parola sbirro, non mi indigno, la critico. Brutto, Roberto da Roma, diciamo che è brutto almeno, no? Va bene, no, dimmi, Roberto, dimmi. Ciao, bello. Allora, se mi consenti, volevo piano un'altra volta. Sì, però, amico. Amico mio, però devi farti sentire, però già non si sente un cazzo Parenzo. No, tu... come non si sente? Dai, adesso io sì. Io sto con viva voce, sto col telefono, mi senti? Sì, vai, dimmi. Ecco, insomma, volevo prendere il discorso delle scuregge, che mi interessa molto. Dimmi, caro, perché dimmi. Credo che sia la cosa, una tra le cose più belle della vita, cioè... Assolutamente, sono d'accordo. Allora, ti dico tre attacchi. Attacchi di gas nervino, perché io quando scureggio faccio il gas nervino. Ma che vuol dire gas nervino? Adesso sempre. Tu emetti sempre gas nervino. Poi, seconda cosa? Tre attacchi. Il primo attacco. Arrivi, vedi una zona di 4-5 persone, sganci, arrivi e te ne vai. E poi vedi che si guardano tutti in faccia perché ma chi ha fatto sta puzza? Vabbè, ma questa è vecchia, poi? Bellissima. La seconda che tu arrivi, sganci e fai sentire il profumo al prossimo. Cioè, guarda che profumo e arrivi con la giacca. Che sale tutto da dentro, capito come? Sì, poi? E poi l'ultimo, quello che ho fatto oggi, perché ho visto quello che parcheggiava, io stavo già dentro al portone, chiappo l'ascensore di corsa e la scancio dentro l'ascensore. Quando è arrivato questo che ha chiamato l'ascensore, immagina come è salito. Mi sono messo a ridere per le prossime... Ma è incivile. Bellissimo. Scusa, è una cosa di una inciviltà quello che lei dice. Sergio dalla provincia di Vicenza. Incivile. Sergio dalla provincia di Vicenza, dai. Oltre a essere ovviamente maleducato e schifoso, ma è proprio incivile, è incivile. Sergio, provincia di Vicenza. E si levanta pure. Dai, buonasera. Dimmi Sergio. Mi allineo anch'io con gli ascoltatori, quelli che fanno le critiche un po'. Oh Dio, ma guarda che siete noiosi stasera. Mi allineo. Ma chi sei? Un politico? Chi sei? No, niente. Ascolta, io vi ascolto da un po', ma la mia sensazione è che questo programma è veramente degenerato nel tempo. Degenerato. Anche grazie al suo contributo. Dice sempre che bisogna chiudere il programma, quindi anche Parenzo lo dice. Vabbè, ma che vuoi? Perché hai chiamato oggi? No, per la critica a questo programma che è. E poi, dopo aver detto questa cosa. Pornografico, ottimo, sì. E poi ipocrita. Perché... Tutti complimenti, Sergio. Ipocrita, sì, no. Ipocrita, no. Ipocrita, ah, no. Perché quando tu o lei. Criticate tipo il programma quelli dalla vostra parte. E chi lo critica? Io non l'ho mai criticato. Benissimo, prendiamo in giro la rappresentazione teatrale. Non hai capito nulla, come voi al solito, non hai capito. La stessa cosa. Ma non l'ho mai criticato, come non no? Hai capito niente, sei bacato in testa. Dalla vostra parte. Sei bacato in testa, mai e criticato. Dico un'altra cosa, poi chiudo, metto giù perché tanto con te non si può parlare. Ma no, tu stai parlando, che vuoi? Intelligente, però tanti ti dicono anche di no. Però la cosa grossa è che voi dovreste essere chiari e dire che l'unica cosa che a voi interessa è che questo è un gioco, vi interessa lo share e chi più bestemmia, più dice cavolate, più dice fesserie, più grida, più gli date spazio. Hai detto la cazzata della sera? Hai detto la cazzata della sera? Sei contento? Benissimo, sei soddisfatto? Benissimo. Ti sei sfogato? Ti sei sfogato? Benissimo. Sei riuscito a calmare la tua frustrazione di oggi? Quelli piccoli, non lo so, che accendono la radio, cioè il programma è dalla parte dei bambini piccoli. Pornografici. Ciao. Lui è dalla parte dei bambini piccoli. Allora, caro David, io chiamerei questa Claudia Nozzetti, che è assessore dei Five Stars. A Benaria, la quale ha scritto, ripeto, hanno fatto bene a richiamarseli, cioè gli stupratori di Rimini, spero li obblighino a tagliarselo uno con l'altro l'uccello e a farselo mangiare, cioè vuole che si taglino l'uccello e se lo mangino. I poverini fuggiti dalle guerre, bisognosi di accoglienza e affetti, in alternativa dateli in cura a casa della Boldracchia. Poi si è pentita, ha detto, in un momento di sfogo, una cosa patetica. Chiamiamo, vai. Pronto? Sì, assessore? Chi è che parla? Sì, buonasera, qui Radio 24. Sì, come sta? Come sta? Bene, se pensa che sono in vacanza. Senta, com'è questa storia che dovrebbero gli autori dello stupro di Rimini dovrebbero tagliarselo e poi bisognerebbe darli alla Boldrini? Come mai ha scritto queste cose? Parole forti. Parole forti. Beh, sì, parole senta, forti. Quando ci vado decisa, ma non sono di tante parole. Io ho fatto un post che ho pubblicato. Ho letto, sì. Ok, e direi che possiamo rimanere su quello. Se no, lei però ho capito, cioè, secondo lei, veramente questi qua dovrebbero, per la pena, per questi dovrebbe essere quella di tagliarselo l'uno con l'altro? Ma secondo lei è una cosa così decidibile alla lettera? È logico che è uno sfogo emotivo, ma io quello che ho dichiarato rimango su quella posizione. E però mi scusi, se uno scrive, uno fa l'assessore, lei ha un ruolo istituzionale dei 5 Stelle, scrive che gli autori degli stupri devono tagliarsi l'uccello, e poi dice che in alternativa possono metterli a casa della Boldracchia. Non pensi di farmi dire cose diverse da quelle che io ho scritto, dichiarato nel mio posto di stamattina? Ma perché il primo posto non vale, non ho capito, il primo posto che ha scritto non vale, è solo una cosa emotiva. Io l'ho ritirato. Ma che vuol dire la ritirata? Non è che siamo al coso qua. Perché l'ha chiamata Boldracchia innanzitutto? Non riesco a capire. Senta, io non mi metto a discutere sulle parole. Le parole ma l'ha scritta lei, però. C'è Parenzo che le vuole parlare. Allora mi lasci parlare. No, c'è Parenzo che le vuole parlare. Un attimo. Assessore. Buonasera. Guardi, io adesso però sono in un contesto, una situazione che non volevo solo assessore, sono Parenzo. Buonasera. Sì, guardi, io sento con la massima interferenza, tra l'altro sono anche all'estero. Volevo solo dirle una cosa. Posso? Sì. Più o meno, perché sento che ho un'altra chiamata in entrata e prima della chiamata le voglio dire questo, assessore. Lei non si vergogna? Senta, io ripeto quello che ho. No, è una domanda molto semplice, cara. Non si vergogna? Allora, io quello che ho dichiarato. No, è molto semplice, guardi, sì o no? Non si vergogna, cara. Ma io non è che mi devo vergognare, io che non sbianca a rileggere le stupidaggini che ha scritto, non sbianca. Senta, io adesso la devo lasciare. Scusi, assessore, ma lei si dimette o no? Si dimette o no? Senta, io ho dichiarato sul posto. No, ma si dimette o no lei? Non mi importuni. Ma io lei ho una domanda, ma io non lo sto importunando. Lei si dimette o no? Ma non è una cosa. Ma è una domanda. È una domanda, lei ha intenzione. Questa domanda io non voglio. Ha intenzione di dimettersi, sì o no? Ritengo la sua una mera provocazione. Ma che provocazione? Una domanda, si dimette sì o no? Quella è la risposta. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Direttore pazzesco! Luciani, lo sapevi che il signor Baffino soffriva di flatulenza? Siamo al top. È una delle cose che dicono del signor Hitler, giusto David? Signor Hitler pare soffrisse di flatulenza, era un disturbato mentale, semplicemente anche ma quello. Ho capito, tra le altre cose soffriva di flatulenza. Mi sembra minimale rispetto a tutto il resto, ecco, mi sembra minimale, guarda, però. Allora, Fabrizio da Roma, vai. Anzi, prima voglio ascoltare un prezioso dibattito andato in onda, credo, ieri o oggi. Tra il signor Parenzo qui presente e la signora Meloni. Riascoltiamo per il gradimento di tutti, per le orecchie di tutti, per il piacere, per il godimento. Si parlava della parola populista. No, io l'ho detto populista. Certo, sentiamo. Che fine hanno fatto quelli che in genere vengono chiamati i populisti? Beh, noi abbiamo in studio una protagonista del dibattito che è la leader di Fratelli d'Italia. Buongiorno, buonasera. Anzi, buonasera Giorgia Meloni. Presentata come populista. Buonasera Giorgia Meloni, la populista. Quelli che vengono come populista. Quelli che vengono. No, ho detto che fine come hanno fatto i populisti? Uno ce lo abbiamo qui in studio, eccolo qui. Quelli Giorgia Meloni, chiamati, la populista, si sappia che sono io, i populisti ci sono, sono vivi e vegeti, quelli, non vi preoccupate. Quelli noi ci che siamo. Vengono chiamati i populisti. Sì, sì, ma i guardi, non, io non, può, no, spesso, no, ma io non mi cruccio, guardi, anzi, del fatto che vengo definita populista, si sappia che sono dalla parte del popolo, sempre meglio populista che serve. No, ma hai... La sinistra chiama populista il, chiunque diciamo vada sì, bene al popolo quando il popolo non segue più la sinistra, e mi pare abbastanza ficcante. Quindi nessuno sa cosa si, secondo me cosa significhi populista, siccome io non l'ho mai usato verso di me. Coloro lei, i quali usano diciamo argomenti di cari al popolo, cari al popolo, e li fanno diventare paradigma di un pensiero politico, come ad esempio allora, quello di Draghi. Fermo. Chi ha a cuore il popolo è populista, è una buona cosa. Allora, in tutto questo però a un certo punto, e questa è una diatriba sulla parola populista e chi se ne frega, c'è un'altra cosa che ha detto la Meloni però che è interessante. Ha detto che ci sono alcune etnie che sono predisposte allo stupro. Appunto. Al di là appunto. Della questione populista, che veramente chi se ne frega della definizione di populista, che Parenzo attribuiva. Lei che si è arrabbiata, io non. Sì, lei si è arrabbiata perché tu lo pensi. In realtà tu dicevi no, lo dicono, ma lo pensi anche tu. In realtà. Ma a parte che lo rivendicano anche loro, anche Salvini, mi pare che c'è una parte della destra, poi se si è arrabbiata. Vabbè, piace, comunque sentiamo questa cosa sulle etnie, Sentiamo questa cosa sulle etnie. Se ci sono alcune etnie rispetto alle quali lo stupro è 10 volte tanto la tua presenza, vuol dire che ci sono delle etnie più predisposte. Non è vero che sono i romeni, per intenderci, quelli più responsabili degli stupri. È vero in numeri assoluti. In numeri assoluti è ma così. Non è vero in rapporto. Percentuale, ma non è vero anche in rapporto. Assoluta, in percentuale le due, ma senza voglio dire, ma per capire il fenomeno, in percentuale. E i numeri, voglio dire, seri, se uno i numeri li legge seriamente, senza che li siamo a sciorinare, sono culture nordafricane. Le culture nordafricane, siamo nere, nordafricane, quello che è, stuprano più delle altre. Le etnie, secondo la Meloni. Però la Meloni dice una cosa, allora, leggevo l'altro giorno che gli stupri, sì, non so, bisognerebbe analizzare le cose bene, eccetera. La pratica dello stupro di gruppo, che pure da noi c'è stata, eccetera, basta guardare al Circeo, per esempio, bravo, no? Eccetera. Bravo. Però la pratica dello stupro. È un bellissimo libro che si chiama La scuola cattolica. Sì, peraltro, la pratica dello stupro di gruppo è proprio anche di alcune, per esempio, tribù del Congo. Dicevano no, no, ma che c'entra il Congo? No, leggevo l'altro giorno, la pratica dello stupro di gruppo è propria di molte tribù del Congo. Vabbè, Francesco letto, da Verona. Letto, no, no, è vero, Francesco sul da Verona. Dove l'hai letto? Perché sul bisogna tempo. Negare alcune cose? Francesco, dimmi. Giuseppe, buonasera. Sì, però buonasera. Fatti sentire bene, Francesco, dimmi. Giuseppe, io sono fiero di essere veneto. Quando sì, Francesco, sei fiero di essere veneto? Questo sì. Me ne può fregare relativamente. Se non ma ti vero. Sento, se non ti sento bene perché sei con l'auricolare, col via voce mi incazzo, dai. No, no, no, io non sono né con l'auricolare con via voce, sono con telefono. Vabbè, dimmi, dai, forza. Allora, io volevo parlare di immigrazione. Quello che ha detto l'assessore prima, per quanto riguarda di mangiarci l'uccello. Assolutamente ragione. Cioè dunque gli stupratori ragione. Bisogna gli stupratori bisogna tagliare l'uccello e poi farglielo mangiare. Ma questi africani, allora io ho un carissimo amico nigeriano. Questi africani. Un carissimo sì. amico nigeriano. In generale gli africani, sì. Allora che fanno? Io ho un carissimo amico nigeriano. Sì, abbiamo capito, l'amico nigeriano, che fa l'amico nigeriano? Che odia gli africani. Ma che vuol dire? L'amico tuo, a me non me ne frega un cazzo del tuo amico africano nigeriano che odia gli africani, non me ne frega nulla del tuo amico nigeriano, capito? Nulla, zero. Il tema immigrazione in Italia, affrontato con molta, Francesco, molta... o parli bene sì. al telefono, non ci pigli per il culo perché non sei al telefono, oppure ti saluto, chiaro? Allora, io sono al telefono. No, non sei, sei col viva voce o sei con l'auricolare, chiaro, è chiarissima la cosa. No, è chiarissimo che sono col telefono. Vabbè, Francesco, sei fascista, sì o no? Io sì. Sei fascista. Parenzo, che vogliamo fare? Vogliamo arrestare questo qua che è un cretino? Lo no, vogliamo arrestare? Semplicemente, intanto voglio dire, se dovessimo fare una statistica, tutti quelli che chiama la radio dovrebbe, l'Italia dovrebbe essere un no, paese fascista. No, che c'entra, non beh, c'entra niente. Ma mi pare di sì, cioè quelli che il 90 della rappresentazione, se uno arrivasse improvvisamente da Marte, no? E dicesse, ma sentiamo cosa fanno a Radio 24, e ascoltasse tre giorni la trasmissione, direbbe, ma dove siamo? Alla Repubblica, della Repubblica Socialista, lì, dove siamo? A Salò, penso di stare a Francesco, Salò. Vuoi perché... il Duce? Vuoi il Duce in Italia, di nuovo? No, no, il Duce assolutamente no, io non sono musulmano. Allora perché dici fascista. Di essere fascista, scusa? Sono fascista, non musulmano, sono fascista. E che vuol dire? Ah, scusi, davvero, scusi. Scusi, perdoni, perdoni. Scusi, che scusi, vuol perché, dire? Perché il Duce ha rovinato il concetto di fascismo. Sì, vabbè, arrivederci, ciao. Alfonso da Trapani, ciao. Alfonso. Ma, ciao. Dimmi, ciao, Alfonso. Ciao, Luciani. Dimmi. No, niente, proprio mi collego all'intervento del ragazzo precedente. Tu hai la responsabilità di... aver creato, di dare voce a questa marmaglia di gente che comunque esiste e c'è, perché io le cose che dicono da te le sento ogni giorno al e bar, che, al e che responsabilità ho io? Spiegami. Perché fai parlare solo loro? Fai parlare anche qualcuno. Io faccio parlare anche te, figuriamoci. Faccio parlare anche te. Che cazzo vuoi tu? Faccio parlare anche te, figuriamoci. Ho la responsabilità di farti parlare. Pensate, ho la grande responsabilità di far parlare Alfonso da Trapani. Bravo. Senti una cosa, perché non dici che il razzismo è una cosa antiscientifica? No, il razzismo fa schifo, cioè ti posso ma dire solo. Non... Ma come non lo dico? Te lo sto dicendo, questo. Cretino, te lo sto dicendo. Quello che è intervenuto poco fa, non sa neanche. Ma te lo sto dicendo, sei un cretino, te lo sto dicendo. Parla dell'Africa, perché devo sentire queste cazzate, capito? Ma se non, se non ti va di sentire, spegni e non ci rompi le balle. Non è che chiami, vai, no, chiami, ma va bene. Io sono con te nella libertà di espressione. E allora basta. Non dico che non devi non vabbè, devi ciao Alfonso, ciao, mai rotto, ciao, ciao. Allora, caro Parenzo, collegato da un'altra camera del tuo stesso albergo a Camogli, Carlo Freccero, buonasera! Bene. Ciao! Come andiamo? Tutti quanti voi. Come andiamo, Carlo? Buon anno, buona ripresa, buon anno, insomma, buon anno, buon anno televisivo e radiofonico, dici tu, ecco, no? Ovviamente, ecco, è l'anno scolastico. Bravo. Senti, allora, partiamo subito forte. Ma, L'ho visto oggi in grande forma, Carlo Freccero. Allora, caro Carlo, perché la RAI non fa lavorare la Gabanelli? Ora, io la voglio ridurre all'osso la questione, la voglio proprio ridurre all'essenziale, a me non me ne frega niente delle diatribe politiche, quello che c'è dietro, sì, me ne importa, naturalmente, perché è interessante capirlo, però resta un fatto che la signora Gabanelli, che è una delle più grandi professioniste della RAI, che la RAI ha, e non ce ne sono rimasti tantissimi, diciamo, dopo questa grande migrazione che c'è stata, perché non fa lavorare la signora Gabanelli? Me lo spieghi in una parola, in brevissimamente. Allora, innanzitutto concordo con te, come sempre, che la Gabanelli è una persona validissima, eccezionale, ha tutto il passaporto in regola per essere veramente classificata come nel top dei giornalisti. Esatto. Bene. Seconda cosa, la RAI vuole far lavorare la Gabanelli. Il problema è molto semplice, che per farla lavorare il suo ruolo importantissimo è quello di occuparsi di creare un portale online, sì, per in qualche modo far creare appunto anche alla RAI, sì, alla RAI in qualche modo un portale web all'altezza della RAI. Deve fare report, lei deve fare report. Allora, e chiaramente oggi non è possibile, per motivi di carattere, diciamo così, burocratico, creare una nuova testata. Tutti quanti voi sapete benissimo che ci sono testate, cioè il TG1, TG2, TG3, sì, TGR, TGV, Parlamento, TGR, vabbè, allora? Sport, allora, ecco. E allora io ho fatto la proposta, perché siccome ho già analizzato il piano che lei ha presentato e che trovo validissimo, di in qualche modo creare una condirezione. Sì, però adesso al di là di queste cose... Alta, mi lasci finire. E allora? Perché? Mi lasci finire. Anche, ma perché ho avuto questa idea? Molto semplice. Perché nel piano editoriale che già in qualche modo... Sì, ma lei ha rifiutato questa idea, l'ha rifiutata. Appunto, non so perché, mi lasci. Se tu devi... Allora, sì, il problema è che era News 24... E il portale online erano in qualche modo le basi per raccogliere tutte le informazioni, una a livello televisivo e l'altra invece. Ma tu dici che ha fatto male a rifiutare? Ma se, Secondo me sì, perché in qualche modo aveva a disposizione già 40 giornalisti. Ho capito, ma lei dice io non posso stare sotto qualcuno, devo essere autonoma di decidere. Ma non era la condirezione, poi ti spiego una cosa, sono due media differenti. Uno è Rai News 24, è la televisione, l'altro invece è in qualche modo online. Ma c'è qualcuno che non vuole farla lavorare? Sono due media differenti, ma c'è qualcuno, c'è qualcuno che non la vuole fare lavorare, Carlo, questa è la realtà, dai, c'è qualcuno che non vuole farla lavorare. Facile, allora. Io ho fatto il più che potevo, a me sembra in qualche modo oltretutto secco, voglio dirti. Ma perché si è sospesa, scusa? Come? No, dice, a te sembra perché che lei sia... è incassata, no? È chiaro, Io poi non ci sono dentro tutte quante, io non sono lì a... No, a te sembra che cosa? Che lei faccia un po' di ripicche, che sia un po' una presuntuosa? Ma io quello che mi sembra è che non può dire, ecco, una sola cosa può dire tutto, può lamentarsi di tutto, ma dire che noi non abbiamo esaminato il suo piano, non abbiamo apprezzato le cose, non è vero, se no non saremmo qui a discutere di lei. Quello che emerge, però tu sai benissimo, Giuseppe, le crisi servono molto, è che è urgente questo piano, per cui sia il direttore generale che il presidente. Mi sembra che sei anche incazzato, anche tu sei incazzato con la Gabanelli perché ha rifiutato questo incarico. Dai, mi sembra no, che non sei... sono, io non sono ormai rifiutato, ormai cosa vuol che sia incazzato. Ma che ti frega, sono ormai incazzato col mondo. Ecco, incazzati con Parenzo, perché Parenzo vuole mantenere i vitalizi ai parlamentari, per esempio. È a favore dei vitalizi ai parlamentari. Lo ritengo un problema quello lì. Lo ritengo una demagogia fatta da chi vuole distruggere il vitale dei carrelli, non si viene pagato. Comunque, ti ripeto, io mi auguro tanto che si trovi un accordo per la Gabanelli, perché oltretutto lei ha già fatto una selezione di personale ad altissimo, veramente. Capito, ma intanto in questo momento si è sospesa, per cui non vuole lavorare in quel modo lì. Vabbè. No, ma credo che entro, io vi do un'informazione a voi. Dimmi. Entro veramente massimo 40 giorni c'è il piano di formazione. Ma non ho capito, ci hai parlato? No, io ho parlato con il direttore generale, con il presidente. E che vuol dire piano di formazione? Abbiamo garantito che entro 40 giorni c'è il piano di formazione, per cui lei potrà avere la sua testata. Vabbè, fermi tutti, 30 secondi. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. La zanzara. Allora, Carlo Freccero con noi. Caro Carlo, voglio sapere che ne pensi di Minniti, che Gino Strada ha definito uno sbirro. È un problema. Allora, innanzitutto una cosa è certa e sicura, che Minniti ha posto un problema su cosa sono le ONG, organizzazioni. Le ONG. Vabbè, allora, sei dalla parte di Minniti o di Gino Strada? Allora, dico una cosa solo. Alcune di queste, puoi capire, sono assolutamente meritorie, io mi inchino, ma altre sono in qualche modo, hanno nel loro, diciamo così, nel consiglio di amministrazione personaggi molto alquanto strani. Alcune di queste hanno dentro il consiglio di amministrazione, hanno Soros, hanno Sharp, hanno in qualche modo... Ma sono una persona per bene, bravissima persona. Per bene, è uno che domina, è un manipolatore eccezionale, cioè quindi per bene... Manipolatore? Anche tu? Pensa così. La pensa così, un manipolatore. Anche tu, questa roba di Soros, su manipolatore. E io la penso così, purtroppo. Cosa vuol dire? Ma è un alunno di Popper, Soros! Vabbè, io voglio capire, Carlo, tu sei dalla parte di Minniti o di Gino Strada? Questo è il punto fondamentale. Cioè, qui bisogna scegliere, che si può non scegliere qui. Cioè, quando... No, si può scegliere benissimo. L'affermazione che sia uno sbirro deve essere letta in senso, ne può essere letta anche in quello che è vero. Lui è un uomo assolutamente, credo che sia molto legato a una competenza proprio della polizia. Lui vuole essere uno sbirro, quindi in qualche modo è corretto. Ma per lui è un onore. Ma lui lo dice in senso negativo, però, Strada. No, lo dice anche, forse lo dirà anche in senso negativo, però è vero, ha in qualche modo un'idea fondamentale che la sicurezza, in qualche modo l'essere poliziotto sia una virtù e sia fondamentale per la... Ma non è positivo il fatto che lascia perdere quello che succede in Libia ai migranti, è un altro discorso, tanto succede comunque. Non è positivo il fatto che si sia comunque bloccato per il momento questo flusso, poi magari è solo una cosa temporanea. È straordinaria. Una battuta veramente in mezzo ad altri problemi quali sono, eccetera, però cerco di essere ben preciso. E allora tutto quanto in qualche modo ho scoperto, studiando anche il mio Allora? Anzi, che qui ne approfitto per dirlo e che voglio rispondere a una domanda molto semplice. Ciò che ritengo, quello che io ritengo buono e cattivo è tale per una mia libera scelta o perché è il frutto di una manipolazione evita dall'esterno? Vabbè, ma quella è un'altra cosa, però scusami, se no non capiamo. Ho fatto pubblicità anche per me, scusa. Però scusami, Carlo, ti chiedo una cosa. Ti dico una cosa solo. A parte un problema molto importante, a posto che tutte quelle che sono le attività, diciamo così, filantropiche, eccetera, sono oggi un business. Ma certo, ma questo è. Però un'altra cosa, io non ho capito. È un fatto molto importante. Sì, però scusami, oggi, Carlo, oggi ti posso fare un'ultima domanda? Sì, anche l'industria della filantropia, delle ONG è fatta di business, questo è chiaro. Io voglio dirti una cosa, ma tu veramente, siccome il centrodestra è in vantaggio nei sondaggi, tu se dovessi scegliere tra la vittoria di Berlusconi e la vittoria di Renzi, cosa preferiresti? Ecco. Nessuno dei due, naturalmente. D'accordo, preferisci che vincano i 5 Stelle, ma se dovessi scegliere un governo di centrodestra. Io sono un uomo, non so dirti, io per capire so benissimo che non esiste il paradiso sulla terra, però quindi, per cui di conseguenza ho sempre detto facciamo opposizione perché il mondo sia il migliore, cioè quindi è molto utile anche. Ma tu preferisci un governo di Berlusconi? Ma essere sempre vincitore, ci può essere anche utile essere di opposizione per far sì che non sia meno il male possibile. Ma tra un governo di centrodestra e un governo di Renzi, che cosa preferiresti? Ma devo dire che sono molto uguali. Anzi, Renzi ha fatto molte cose che voleva la destra e la destra oggi fa molte cose che vuole la sinistra. Beh, governo Salvini, Berlusconi, Meloni sarebbe un po' diverso da un governo del PD comunque, non è che sarebbe proprio uguale. Cioè, non lo so, cioè vedo che molto c'è molta sintonia, cioè. Ma insomma, sì, forse Minniti è il trade union. Vabbè, caro, ti saluto. Quindi. Ciao, ti abbraccio. Ciao, allora, ciao ragazzi. Ciao. Allora, Andrea da Pesaro, vai Andrea. Sì, mi sono comprato. Dimmi. Per mandare a fare in culo parecchio. Dai, dimmi. Fatti capire, allora, però, amico mio, fatti capire, dai. Ma penso che sarà semplice. Io abito a 2 chilometri dalla casa popolare, dove stavano e tuttora. Non sento, Fabrizio da Roma. Dai. Buonasera. E complimenti a Parenzo. Dimmi, dai. Io penso, grazie, che Cruciani devi delle scuse alla ragazza polacca violentata. Perché? Scusa, spiegami. Perché io delle scuse, io che ho fatto, sì, alla ragazza polacca violentata? Come che hai fatto? Che cosa ho fatto? La doppia penetrazione, se sei uno di quelli che ha io la doppia penetrazione, mica l'ho titolato io la doppia penetrazione, al limite qualcuno, e secondo me non deve, ma ieri e qualcun altro. Tu ieri ma che sei scemo, sei pazzo. Come totale, è vero, ma sei impazzito, ma che sei, che sei dentro il mio cervello, sei, ma se sei, tu risenti la tua voce, ma tu sei malato di mente, sei, te lo dico io, sei malato di mente. Io non mi eccitavo per, no, perché mi dai contro, che vuol dire? Perché dici una cosa che è palesemente falsa. Ho riportato quello che era il titolo di Libero sulla doppia penetrazione. Che Parenzo ti ha spiegato che non dovevi proprio riportare. Ma questo sono cazzi miei se lo riportano. Questo secondo te non lo devo riportare? Secondo me sì, chiaro? Questi sono. L'ha detto Parenzo, chi se ne frega? L'ha detto Parenzo, accogliamola. L'ha detto, però, se questo ascoltatore ti ricorda che quel che dice Parenzo è cassazione, quindi è definitivo. Sì, ma Fabrizio, ma non ho capito che cosa vuole da me Fabrizio. I due titoli sono fuorvianti e soprattutto sono falsi. Esatto. Ma no, ma i titoli sulla doppia penetrazione è quella è una porcheria. Riproduzione in un titolo, la riproduzione in un titolo come di quelli mai che non erano. Come mai non lo hanno mai fatto su tutti gli altri episodi di stupri che riguardano i bianchi? Quando uno stupro diventa un fatto importante cui si parla per giorni, politico, di cui si fa quello che ti pare. La vergogna è che lo avete fatto diventare. Ma ne hanno parlato tutti per giorni, non solo mica solo quelli di destra, i giornali di destra. Alcuni politici e alcuni giornali hanno fatto diventare lo stupro un fatto politico. È il dramma. Ne hanno parlato tutti, centrodestra, centrosinistra, giornali di sinistra, giornali di destra. Non dire cazzate, dai, su. E che parla dicendo doppia penetrazione. E non ti permettere di dire che io mi eccitavo di fronte a questa cosa, imbecille. Capito? Ma si sente un cazzo. Ma sei un coglione tu, no io. Ma che cosa dici? Ma cosa dici? Ma che sei nel mio cervello, cretino? Dai, su. Tu sei una persona che si eccita per quelle cose. È arrivato il santarello. Ma cosa c'entra? Sono due cose diverse. Il sesso normale e la violenza sono cose diverse, cretino. Il sesso normale e la violenza sono due cose diverse, imbecille. E tu vai a dire doppia penetrazione alla ragazza. Non l'ho scritto io, cretino. Non l'ho ma scritto. L'hai riportato, io. L'ho riportato perché se ne parlava. Era un argomento di discussione, poveraccio. Allora, sei un coglione. Vabbè, benissimo, libero. Dimmi che sono un coglione. Tanto che. No, te. Ma perché lo devo dire se io? Un coglione dice ma perché lo devo dire io? Tu lo riporti. Ma secondo me riportato. Hanno fatto bene a titolare perché era la rappresentazione di quello, che vengono, di quello che c'era nei verbali. Senza troppe discussioni, senza troppa filosofia. La doppia violenza alla donna. Non c'è nessuna doppia violenza. A tutto pensa, a quello che viene pubblicato da Libero. C'erano i verbali, hanno fatto il titolo. C'era, qual è il problema? Perché lo ha detto. C'erano i verbali perché certo, lo ha detto. Certo. Certo. Che c'era. E allora, dici? Punto, è la rappresentazione di quello che c'era nei verbali. Punto e basta. E no. Tu lo riporti. Io lo riporto. Hai riportato quelle due frasi. Di tutto il verbale, tu ma hai riportato chi? Quelle due frasi. Ma perché bravo. Erano quelle di cui bel si discuteva? Era quello di cui si discuteva. Era la polemica no. di cui si discuteva, cretino. La polemica era sui quattro negri, cretino. No, era anche su questo, poveraccio. Non hai capito, era su questo la polemica. Non c'è stata nessuna eccitazione. Sei bacato in testa. Fermo. Ma tu risentiti. Vabbè, ma vattene, vattene. Per il tuo cervello, scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. La zanzara. Ieri per caso, Parenzo, dopo mangiato, mi è capitato sì. di girare sulla 7. Sì. Ma sei veramente una roba imbarazzante. L'ha visto, però. Tu sembri Mr. Burns, il sì. capo di Homer Simpson, uguale, sì. bianco, con queste occhiaie. Tenese sì. sembra Hitler uscito dal McDonald's. Veramente, questo però. Avete fatto una bella definizione, però. Nausea, ragazzi. Però devo dire, è anche simpatico questo, è stupido, è anche simpatico. Ma parli sempre delle brocche e tutto, però fratello, io te lo dico con tutto il cuore. Ma fratello, non è che deve essere fratello un modo di dire, perché tu non sei mio fratello. Però fratello, non è che niente. Deve essere presentabile solo la tovaglia, anche tu. Cioè, con quella faccia vatti a fare una lampada, vatti a mettere un rompe di occhiaie, vai in palestra, fai qualcosa. Sì, perché mio nonno io sto lavorando con la testa. Io lavoro con un'altra cosa, che è un organo riproduttivo. Con le troie, col cazzo lavoro. Tu sei una pezza di merda, sei. Stasera, Parenzo, sono scatenato, sono furibondo con tutto e con tutti, sono furibondo, non lo so perché sono furibondo, mi hanno fatto incazzare questi che hanno chiamato, dai, dove andiamo? Finalmente si è svegliata la maggioranza silenziosa. Andiamo prima da Enrique da Milano, un altro, va. Leggo qua una cosa che già mi fa imbestialire, Enrique da Milano, vai. Ciao Cruciani. Dimmi, fenomeno, dimmi. Sì, ma da quando ti sento stasera... Non si sente niente, o si sente bene oppure ti sbatto un telefono in faccia, vai, dimmi. Sto dicendo, tu stasera hai dato del cretino a tante persone, ma secondo me ma è le stesse cose che dicono no, su di me. Cruciale, ho capito, però ma tu in Congo ci sei mai stato? No. Bene, allora con quale leggerezza, con quel diritto ho detto, puoi dire ho... con leggerezza che sì. i congolesi sono... Non ho detto che i congolesi stuprano le persone in massa, ho detto un'altra cosa. Come no? Non ho detto questo, sturati le orecchie, ho detto un'altra cosa, fenomeno, ho detto un'altra cosa. Ho detto di aver letto, questo ti permette quindi di dire una stronzata del genere. Devi stare tranquillo, devi stare tranquillo. Non puoi permetterti di dire qualsiasi Enrique, devi stare come ti chiami? Enrique. Sei congolese? Sei congolese, non sono congolese. No, vabbè, sono una domanda. Cretini, che è diverso. Sì, ma devi stare tranquillo, devi stare calmo. Allora, caro Enrique, ho detto di aver letto, credo in qualche giornale, ho capito, devi stare tranquillo, non è perché tu leggi qualsiasi cosa che ti possa permettere. Ho detto, ma io mi posso permettere quello che mi pare. Io ho detto semplicemente un'altra cosa, ma devi stare muto un attimo. Stai zitto un secondo. Allora, ho detto semplicemente che non è che tutti i congolesi stuprano, ho detto che in Congo ci sono delle pratiche in alcune tribù di stupri di massa, sì, è così, di stupri di gruppo, è così. Ma cosa vuol dire? Ma non vuol dire niente. Ho detto che è vero o non è vera questa cosa? Sì o no? Non vuol dire sì. Niente, Ma poi esiste, perché in Italia non ci sono stupratori, scusami. Ah, quello che c'è, non ho detto che non ci sono stupratori allora, in Italia. Quindi in Italia ci sono delle nighe che stuprano di massa, ma che cazzo stai dicendo? La negazione della realtà, qui siamo, alla negazione della realtà. Vabbè. Gli stupratori ci sono dovunque, va bene? Sì, allora? Ok, allora dire che esiste un'etnia, ma quale etnia, scusami? Ho detto che in Congo, ma questa dirla la Meloni, non lo dire a me, un'etnia che supera di più, dirla la Meloni, non a me. Delle fronzate che tu devi venire la tua trasmissione e diffonderle in questo modo. Dai. Enric, fattene una ragione, questo è un paese libero dove si può dire quello, dove si può dire qualsiasi cosa, chiaro? Non sei tu a dire quello da dire e non da dire. La libertà non è questa. Enric, questo piuttosto è razzismo. Direi. Ma quale razzismo perché, di cosa? Ma di certo, perché poi ci sono non solo razzismo. Ma dillo alla Meloni, dillo. Tu dici delle cose, tu come dire, no, diffondi delle cose che non stanno in cielo in terra. Ma che ho semplicemente detto. Ma non è perché la Meloni lo dice che diventa parola del Vangelo, scusa. Ma io ho detto che ci sono delle etnie che superano di più? Ho detto io che ci sono delle etnie che superano di più? Ho detto che ci sono delle tribù in Congo dove si pratica lo stupro di gruppo, chiaro? Chiaro sì, certo. O no? Ma cosa vuol dire però? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono alcune realtà dove la sottomissione della donna, dove la sottomissione tra queste alcune tribù del Congo, dove la sottomissione della donna e l'uso della donna sta. Non ti preoccupare, adesso ti recupero l'informazione. E dove l'uso della donna e la sottomissione della donna sono pratica comune. Non sei certamente tu a poterlo negare, chiaro? Marco da Forlì, ciao Enric, ciao. Ma cosa vuol dire pratica comune? Ma che vuol dire? Vabbè, allora, non ci sono posti dove la donna viene sottomessa e stuprata nel mondo? Esistono o no? Ma in generale c'è la cultura dell'uomo, Marco di sopraffazione della donna. Bravo, ma non è quello che appartiene a una cultura beh, particolare. Beh sì, ad alcune culture, in alcune zone di qualche paese sì, certo. Marco perché altrimenti non si spiegherebbe come mai nel ricco, ricchissimo Occidente avvengono purtroppo anche lì avvengono, certo. Di violenza. Anche lì avvengono. Hai citato tu prima il mostro del Circeo, ma cosa diciamo allora? Che è una particolarità di alcune persone cresciute i margini della società. Marco da Forlì, vai. Ma veramente? Oh, ma cosa vuoi? Dimmi Marco, dimmi. Ci sono, sai chi sono? Marco Pulcioni, il cane. Chi sei? Quello di Pisa. Ah, quello di perché ti sei spostato a Forlì? Quello drogato? Ero in nome. Chiamalo come vuoi, Marchino. No, ma drogato mica in senso negativo, drogato per gli enti. Ma si sono drogato di tutto. Ascolti, volevo dire. Ma scusa, ma non sei quello che si fa di eroina tu? Sì, sono io, sono Marco. E sì, che ne so io, Marco? Sì. C'è scritto da Pisa di solito, qua c'è scritto Forlì adesso. Scusi, prego, signora, venga. Io sono un girovago, 2 mesi fa ero in Spagna, Barcellona. Tutto a posto, signora, grazie molto. Pagano tutti i viaggi, io sono un on the road, suono l'armonica, parlo 4 lingue, te l'ho già detto un sacco di volte. Ma ti fai, ti fai sempre di eroina? No, ho smesso. Hai smesso? Lui è buona questa cosa. E adesso come hai smesso? Mi sono comprato 1 litro di metadone, me l'ho bevuto, me l'ho scalato, 0,5 litro l'ho buttato, ho sofferto un po', 2 mesi senza dormire, sto ancora passando tutte le gioie dell'inferno, ma va bene uguale, comunque dopo 40 anni ci ho provato di nuovo per l'ennesima volta, senza la comunità. Cioè stai provando a uscire dall'eroina? No, io ne sono già uscito. Da quanto tempo? L'ultima volta che ti sei fatto quanto è stato? A maggio. A maggio, dove? Beh, buono questo qua. Quattro mesi, ottimo. Vabbè. Ma come stai di testa? Di testa, come stai? Ma io secondo me sto bene, forse magari un pochino meno di altri. Ascoltami, voglio bene a te, a Cruciani. A Parenzo. Non ho rancori con nessuno. E perché dovresti avere rancori con noi? La prima volta che ti ho visto in televisore, ti ho visto, mi sa che ero... Davvero, all'Isola d'Elba. Ma stai parlando con Parenzo o con Cruciani? Con tutti e due, con Parenzo e Cruciani, perché ci siete tutti e due in radio. Allora dimmi. Vi voglio bene. La prima volta che ti ho visto, quando ti ho visto in una trasmissione di tutti gli anelli o cosa, non ti avevo mai visto perché io il televisore non lo guardo, ascolto solo la radio, ho detto questo è un fricchettone come me, a prescindere che tu adesso ti faccio, a me non importa. Ma non mi faccio, ti posso assicurare che non mi faccio. L'altro giorno in una trasmissione, ero in un bar, mi stavo prendendo il mio solito caffè con la sambuca, più sambuca del caffè, io ho visto Cruciani. E voglio bene anche a lui. Comunque, vabbè. Vabbè, che vuoi dire, Marco? Dimmi che volevo vuoi dire. Volevo dirti una cosa: se mi dai la possibilità, vai, ve veloce però, vai. Ognuno fa quello che vuole. Allora, io vivo nella strada ed è tanti anni che faccio la strada, proprio tanti anni. È una mia scelta di vita, l'ho scelta io. A prescindere dal fatto che dicono che gli extracomunitari sono razzisti, non sono razzisti. No, no, voglio dire una cosa all'ascoltatore di prima. Aspetta, Marco, fermo un attimo. L'ascoltatore di prima, il Congo, paese di origine di Gerlam Butungu, il capobranco accusato degli stupri di gruppo a Rimini, sarebbe il posto più pericoloso al mondo per una donna. L'inviata speciale delle Nazioni Unite per la violenza su donne e bambine nei conflitti definì la Repubblica Democratica del Congo la capitale mondiale dello stupro. La capitale mondiale dello stupro. L'ONU, la capitale mondiale dello stupro è il Congo. Ma chi ha detto? Non credi nemmeno all'ONU adesso? Ai tuoi amici dell'ONU? La capitale mondiale dello stupro, il Congo. La capitale mondiale. No, no. Aspetta, una media di. Benvenuti dalla vostra parte. Ma non c'è bisogno. Questa sera siamo andati in Congo e ci chiediamo come mai il Congo è venuto in Italia. Dici, come è venuto in Italia il Congo? Sì, come mai il Congo è venuto in Italia? No. No, aspetta amico mio. Allora, tra le cause dell'impunità, secondo sempre l'ONU, sarebbe una società profondamente maschilista e patriarcale. L'ex militare congolese ho stuprato 53 donne e bambine di 5 anni, eccetera, eccetera. Una delle pratiche, sempre secondo l'ONU, è lo stupro di gruppo. Ragazzi, non vi rompete i coglioni. La realtà è questa. Non ho alcune culture esprimono questo in alcune zone del mondo. C'è poco da fare, è così. È nella testa, c'è una questione culturale. Di cosa stiamo parlando? Dov'è il Butungu di prima? Là, c'è il tizio Enric di prima. Enric Butungu. Dov'è Enric Butungu? Chiamatemi Enric Butungu di prima, va. Marco, vai, dai, su. Richiamatemi quel cretino, Marco, vai. Ascoltami, io vedo tanto di quello che ti volevo dire io. Veloce però, amico mio, parla bene, adesso non sei più drogato, non sei più eroinomane, c'è la voce. Non ti preoccupare che io parlo quattro lingue, li ho imparate tutte nella strada. Vai, che mi volevi dire, dimmi. Comunque lascia perdere. Io ho vissuto e vivo tutte queste storie nella strada, non ho la casa, non ho un buco. Vabbè, ma io che vuoi dire, amico mio, che vuoi dire? Ti voglio dire che non è il Congo e non è l'italiano, ma bensì sono persone o personalità loro, perché c'è il marocchino, c'è il tunisino, c'è l'italiano coglione, c'è il sardo come me coglione. Vabbè, Marco, fermo un attimo. Giuseppe, puoi dire Ricca. Enrique, là, amico mio, parlo meglio di te, il francese, dai. Allora, Congo, capitale degli stupri, il posto più pericoloso per una donna. Amico mio, adieu, come si dice, adieu. Adieu, amico mio, l'ONU, addio, l'ONU, addio, l'ONU, addio, Enrique, adieu, adieu, au revoir, adieu, au revoir. Il Congo, il posto più pericoloso, la capitale mondiale dello stupro, il Congo, hai capito o non hai capito? Adieu, Enric, adieu, ciao amico mio. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore, Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! Sei in ritardo! Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. Vi presento la zanzara. E mi sono innamorato, ma di tuo marito. Now vir maldaggi, now sei infelice. Come siete pazzeschi, Giuseppe, sai che sono innamorato di te? Gli uomini come te, amore, agli uomini come te non bisogna mai chiedere niente, perché già si sa quello che vogliono. Momento in pai, o chi ti veo, ma non mai, tutto moreo. E mi sono innamorato, ma di tuo marito, di per sempre in vita. Ragazzi, Parenzo, ma lo sai chi c'è questa sera? Lo chi sai c'è, chi c'è questa c'è. Sera? Mi sono innamorato di tuo marito, Cristiano Malgioglio! Amore mio, belli, buonasera! Che bella! La zia, la zia Malgioglia! La zia Malgi, ma sai dove sto andando? Alla Sagra dell'Uva! Alla Sagra dell'Uva? Sì, se ti avessi detto la sagra della banana, chissà cosa avresti, ma che vai a fare la sagra dell'uva? Scusa, no, c'è una mia amica, mi fa: dai Cristiano, facciamo questa, fammi questa sorpresa, amore, gratis, non sono come Belen che prende 30.000 euro per fare la sagra del peperoncino. Cioè tu dici, io vado, vai, tu vai gratis, queste cose vai gratis, se non prendi gratis i soldi, non prendi, no, i soldi magari da No, è stata una mia amica, mi ha chiesto questo favore e non posso dirgli di no, perché è stata sempre meravigliosa. Ma scusami, spiegami Cristiano, ma allora consideri queste cose che fa ogni tanto Belen delle cose da poveracci? Poveraccio, 30.000 euro. No, appunto, ma è da poveracci chiedere 30.000 euro per una cosa del genere, come ha fatto... Non lo so, beh, se glieli danno fanno bene. Ma perché una è molto avida, secondo te è molto avida lei? Non lo so, perché io la conosco poco, non è che lei mi ama molto, non lo so. Non ti amo, non vi amate molto tu, la signora Belen. Senti, no, ma tu lo sai dove sta andando il signor Malgioglio, Parenzo? Lo sai dove sta, no, per entrare? Alla sagra dell'uva, ho capito. Alla sagra dell'uva adesso, ma sta per entrare... Ma voglio dire, raccontare un piccolo aneddoto. Tempo fa mi trovai, e voglio che anche gli ascoltatori siano messi a parte di questo aneddoto, ero in treno e stavo andando verso, credo, Padova, con mia figlia Margherita. Sì, è vero. Che ha... sì. 9 anni. A un certo punto arriva la Margioglia che mi abbraccia, mi bacia, dice: ciao tesora, come stai? Mia figlia, che ovviamente ha 9 anni, dice: ma perché lei è la zia? Dice la zia Margioglia. E io ho detto a Margherita, che dice: la zia. Ma mi dice: ma non l'abbiamo mai conosciuta questa zia in famiglia. La zia dell'America, dovevi dirgli. Ecco, io non sapevo come spiegare bene a mia figlia che in realtà non è la zia Margioglia. Non esagerare, lui è ingenuo. Non esagerare, hai spiegato che era un uomo, ha capito che era un uomo. Beh, no, certamente, infatti. È un uomo straordinario. E cioè, perché si fa chiamare la zia? Dico, perché è una zia in fondo, no? Ma tu mi hai chiamato zia, scusa, che cacchio ne so io. Allora, io devo dire, ragazzi, mettiamo le cose in chiaro. Allora, fatemi risentire quel pezzetto di canzone, perché questa canzone che è già uscita, questo singolo di grandissimo successo di Cristiano, e voglio sposare. Com'è il titolo, Cristiano, esattamente? Mi sono innamorato di tuo marito. Beh, tu ti sei mai innamorata del marito, dei mariti di qualcuno? Sì, l'ho fatto una volta, ma non sapevo che fosse sposato. Quando l'ho saputo, gliel'ho raccontata a mia madre, e mia madre mi ha trovato subito a confessare. Ah, addirittura. E tu, col cavolo che ti sei confessato? Mi sono confessato, giuro. Ma però è bellissimo innamorarsi dei mariti, soprattutto quando ci stanno, o no? Beh, oramai non ce ne sono più, né mariti, né fidanzate, né amanti. Trovare un uomo, figlio mio, non lo trovi neanche. Ma come trovi, no? Di più un diamante messo dentro la sabbia. Ma addirittura, ma scusa, ma non eri fidanzato una volta tu? Beh, 10 anni fa sì, adesso no, adesso vivo, sono single. Ma c'era un amore straniero, io so che c'era ma un amore straniero. Ma c'è sempre. Quello c'è sempre. Quello a Dublino, ma che è un amore di che tipo quello là? È platonico. Secondo grado. Cioè, è platonico? Ma che mi fai dire, scusa, delle cose personali, quando sono insieme io e te ti dico tutto. Amore platonico oppure è un sesso feroce? C'è sesso... Sei sesso feroce oppure è solo platonico? È tutto. Amore irlandese. Ma c'è bisogno di andare in Irlanda per trovare uno? Che c'è bisogno di trovare in Irlanda? Una volta uno si innamora così all'improvviso. Stavo comprando uno yogurt, mi sono trovato questo di fronte, e poi me lo sono ritrovato in un pub. E poi a letto. Ma scusa, ma questo qua, scusa, non ho capito. Ti prego. È giovane o no questo qua? Sì, 35. Come al solito tuo, sempre coi giovani, una roba incredibile. 35 anni, scusa, cosa devo andare? Allora, prima domanda a Malgioglio è questo: quante volte cambi le mutande? Due volte al giorno. I calzini? No, due volte, i calzini, dunque, una volta. Una volta, cioè ogni perché giorno... No, siccome ho dei piedi che mi profumano sempre, grazie a Dio, io no. Ce l'ho sempre... Però tu non hai paura di andare nella casa del grande fratello VIP lunedì e di sentire la puzza, l'odore, la puzza della gente, l'ascella? Le ascelle, infatti entrerò con una mascherina. Con una mascherina? Sì, non posso sentire l'odore delle ascelle. Ma veramente? Entrerei con una mascherina? Sì, la metterò dentro la casa subito, immediatamente. È stupenda questa cosa qui. La casa del grande fratello VIP, un Malgioglio con la mascherina. Sì, con la mascherina. Si immagina le ascelle della mia amica, ma saranno profumate, di Serena Grandi. Già le si è prenotata per dormire con me. Una volta ho dormito con lei, non mi ha lasciato dormire tutta la notte. Pensa un po', questa che dorme con me, all'improvviso urlato, tu mi violenta, e per la prima volta nella storia di un reality Malgioglio è diventato etero. Scusami Cristiano, ma è pure dimagrita, te la potresti pure fare una notte o no? Ma neanche. Ma perché? Regale. Scusa, non ho capito. Ma che mi faccio? Ma chi mi faccio? Una mia amica? Ma poi che me ne frega? Ma sì, ma ogni... dopo tante, l'ultima volta che sei stato con una donna, quando è stato? Ma chi se lo ricorda? Tante... Però ci sei stato una volta, cioè 30 anni fa, che ne so, 30? Ma... Per favore, tu sai che le cose mie private non te le racconto mai. Vabbè, ma la cosa vera è che io vorrei innanzitutto che tu mi cantassi un attimo lo stornello. Ma, cioè... senti, ma ascoltami, ma questa storia che io devo andare su. Adesso da... ci arriviamo, adesso ci arriviamo. Dimmi. Adesso ci arriviamo. Com'è la canzone, l'ultima che hai fatto, quella del fidanzato, del marito? Com'è che fa? No, beh, com'è sono che molto fa? Contento perché adesso uscirà questo disco tutto in No, ma fatemi brasiliano. Sentire la cosa, fatemi sentire il ritornello un attimo. Non mi aspettavo questo successo. Cosa fa? Mi sono innamorato, ma di tuo marito. E così via. È bellissima, ma mi sono innamorato, ma di tuo marito. Mi sono innamorato, ma di tuo marito. Mi sono innamorato. Scusami, è bella che questa canzone la cantate tutti gli etero, ma te ne rendete conto? Mi sono innamorato, ma di tuo marito. Anch'io vorrei innamorarmi di qualche marito ogni tanto, solo che gli uomini non mi provocano nessun brivido, amico mio. Le mogli, peccato, però, se fossi gay sarebbe stupendo. Le mogli, guarda, le mogli sì, ogni tanto le mogli, quella è una bella... Lo so, le mogli sono toste, però i mariti non si devono mai rubare. Allora, beh, tu adesso non lo puoi dire una cosa del genere, non si possono rubare. Ma non mica fare una questione etica, sì, dai. Io adoro molto le donne, quando hanno un marito se lo devono tenere stretto. Allora, io voglio capire una cosa. Razzi ha detto che tu potresti andare a cantare in Corea del Nord. Potresti addirittura andare con lui in Corea del Nord perché vuoi cantare in questo stadio enorme di Pyongyang. È vero o non è vero? Dunque, la storia è vera, ma soltanto non appena io arrivo lì all'aeroporto, mi mettono sopra un cannone e mi sparano. Tu ti immagini, gioio con questo ciuffo biondo che non ho visto mai un UFO, questi qua, che cosa può succedere? Ma prima di tutto il problema è che gli deve portare tutti i testi delle canzoni. Pensa se io sbaglio una riga e non dico quella riga giusta, che invento una parola, questi mi mettono dentro. Ma no, ma ti piacerebbe cantare o no? Ti piacerebbe cantare? Sì, una cosa per la pace, sì. Bellissimo. Dunque tu andresti con Razzi in Corea del Nord per la pace. Certo, è normale andare in Corea così, non me ne frega niente. Anche se i miei dischi, ti devo dire, negli anni 80, sì, nella Corea del Sud uscivano sempre. Capito, Corea del Sud però, Corea del Sud. Però... Del Nord no. No, certo. Appunto, no. Dunque, ricapitoliamo la cosa. C'è stato questo contatto... Però non andare a cantare alla corte del dittatore, dai, è una cosa brutta. No, ma per la pace, ha detto. Per la pace andrebbe. Ma quello lì è un sanguinario, un pazzo scatenato. Ma, dai, ma io... Ma per la pace si può fare tutto, si può fare questo ed altro, tesoro, no? Ma sì, ma poi lo scambia per Mattarella, magari, no? Che assomiglia anche a Mattarella. Cioè, Kim Jong-un lo scambia. Ma sì, assomiglia un po' a Mattarella. Ma gli gialli, Mattarella, scusa. Ma guarda che sono due, è una fotocopia di Mattarella, cioè sono uguali, identici. Ma mica c'hai i capelli gialli, Mattarella. È uguale, lo scambia per Mattarella Kim Jong, cioè, amico mio, dai. Allora, questo presidente stupendo, il nostro presidente. Allora, devi sapere, caro David, sì, che hanno Malgioglio è innamorato di Icardi, giocatore dell'Inter. No, non mi piace più. Perché non ti piace più? Perché adesso mi piace molto un altro attore, che è Channing Tatum. Come si chiama? Channing Tatum. Vabbè, ma che c'entra quello? Non ti piace? Ti piace Tatum? No, Icardi, ma pensa se quella lì, se Vanna Mara, come si chiama, deve sapere, sa che io sono innamorato di lui, quello viene sotto casa mia, mi fa il mazzo. Beh, ho capito, ti fa un mazzo, quello potrebbe anche piacerti, però il punto fondamentale è un altro, cioè che tu hai sempre detto che Icardi era un tuo simbolo. È vero, molto bello. Molto bello. Molto sexy. Poi sai, lui è molto innamorato di quella donna. Vabbè, ho capito, ma non è che potevi avere l'ambizione. Non è che possono fare pensieri cattivi. Non è che potevi avere l'ambizione di farti Icardi, amico mio. Cioè, no, mai pensato. Pensa se mi innamoro del presidente della Corea del Nord. Non credo che sono tutti brutti lì gli uomini, sono tutti brutti lì. Infatti, invito a te come testimoni di notte. Ma scusami, Cristiano, ma da quanto tempo è che non fai sesso? Diciamo la verità. Ma che te ne frega a te da quanto tempo che non faccio sesso? Adesso devo andare nella casa del grande fratello, cioè sono spaventato e tu mi parli di sesso. Sei spaventato da che cosa? Dall'astinenza, no? Da che cosa? No, sono spaventato di tutto, non so cosa succede, non voglio far vedere una parte sbagliata del mio carattere. Vabbè, ma sparerai a zero. Sei il nostro favorito e sicuramente sei il grande favorito. Secondo anche i bookmaker. Sai che ci sono i bookmaker, Parenzo, sulla, sì, sui... Me su... Sì, ho letto oggi su ADN Crono. Sì, ci sono... lo danno? Però bisogna vedere se io ci resisto là dentro. Se Pamela Prati ha voluto il taxi o pretendo l'elicottero, tesoro. Perché l'unica vera star sono io là dentro. Non c'è dubbio. E un'altra cosa, però... Ma tu mi vieni a trovare? Perché non vieni a trovarmi? No, dentro il Grande Fratello VIP. No, no, no, no, giù, giù, giù, giù, giù. Dove giù? Giù per difendere. Giù dove? Giù sotto i pantaloni. Dove devo venire? Sei impazzito. Scusami, Cristiano. Cristiano, tu una volta avevi detto: non vado, non ci vado al Grande Fratello VIP, non ci vado mai, tranne se mi danno 100.000 euro a settimana. Alla fine te l'hanno dati allora 600.000 euro a settimana, questo avevi detto una volta. Beh, lo so, ma non posso dire niente. Ho capito. Una volta avevi detto, una volta hai detto: ah, beh, sì, dico tantissime, dico tante cose. Sai che cos'è, amico mio bello? Che io mi voglio molto divertire. Io sono uno molto positivo, voglio fare tante cose, voglio fare molte esperienze. Non so che cosa succederà, non so se è una buona esperienza, però sono un uomo coraggioso. Ma t'hanno riempito dei desordi o no? Almeno un po' di soldi. Amore, ti inviterò a cena una sera, come andiamo a passare un weekend in qualsiasi città del mondo che preferisci. Vabbè, ciao tesoro. Ci possiamo, Parenzo, anche? Sì, direi di sì. Grazie, perché no? No, perché no? Ma no, perché no? Facciamo il triangolo delle Bermude, tesore. Dai. Non voglio triangolo. Attacchiamo col fidanzato, vai, andiamo col fidanzato. Com'è la canzone? Sempre delle porcherie, comunque. Partiamo col fidanzato, vai. E mi sono innamorato di mio marito. Carine, ciao Cristiano, ciao, forza, grande, torna mio, con la vittoria, due. Torna con la vittoria, ciao. E con tanti soldi. Ciao. Miserabili. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Parenzo, sei una goccia del merda, tu vatti a mare, cammina. Pare, certo che fai cagà proprio, fai vedere i latte alla ginocchia, quanto cazzo sei brutto all'aria che tira. Un abbraccio, caro Parenzo, la minoranza silenziosa, anzi no, la maggioranza silenziosa dei miei coglioni. Un abbraccio di nuovo. Tornata, Parenzo, è tornata Radio Padania, il peggio di Radio Calabria. Oh madonna. Via. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavano. Ascoltatori, vai. Ieri su TGCom 24, che è fazioso all'inverosimile quel telegiornale, e i giornalisti, non ne parliamo, hanno detto che con tutta probabilità sarà arrivata o da un aereo o da una valigia. Per me poteva anche aggiungere o da un barcone. Guarda che il TGCom, i giornalisti del TGCom sono veramente di una schifezza unica, faziosi all'inverosimile. Pensa te, quelli del TGCO 24, se si riferisce a quello fazio, ma siamo al delirio totale. Senti, questo contro la Fedeli, il ministro dell'istruzione, senti. La Fedeli l'hai vista, lei si è incavolata quando hanno detto tutti a casa della Boldrini, perché almeno due li voleva lei. Capito questo che ha detto? Cioè la Fedeli si è incazzata per i migranti a casa della Boldrini perché due stupratori li voleva lei. Poi contro Telese e Parenzo, senti. No, secondo me ci sono degli infami, ci sono veramente delle persone che secondo me odiano gli italiani o se ne fregano se gli italiani devono soffrire. E vedo, non so, un Telese e un Parenzo e dico, ma caspita, ma come fanno ad avercela tanto con la loro stessa gente? E nascondendo tutto quello che nascondono dietro, perché... Scopano le mogli, le figlie, le sorelle, e noi dobbiamo metterci giù a 90, così magari ci inculano anche. Povera Italia, come diceva mio nonno, povera Italia. Come una madre e un figlio. Come apostolo dell'amore, quale sono io? E cioè testimone della verità di nostro Signore Gesù Cristo. Ricordiamoci, unico vero Dio, Re Salvatore del mondo. Volevo dirti che tu sappia che l'Islam non è una religione, ma è un'ideologia. Nessuna religione impone di uccidere. libertà. E ovviamente non poteva mancare Barin. Devi ringraziare gli immigrati, li devi baciare, perché loro ti danno da mangiare, altrimenti di che cosa cazzo parli? Della signora Maria? Sputi nel piatto dove mangi, caro zuzzerellone senza vergogna. Ma cazzo, di almeno una parolaccia, no? Non mi blobbano sulla zanzara se non dici una parolaccia. Di Sammy Varin faccia di merda. Guardava. È troppo ben pensante questo giornalista. Mi ha detto che gli immigrati mi danno da mangiare. Ma guarda un po', e che cosa mi danno da mangiare? Le loro zanzare che portano la malaria. Per me la Sicilia non è Italia dal punto di vista politico, perché lì fanno il cazzo che gli pare da sempre. Beh, questo è un po' in contraddizione col nuovo corso salviniano, devo dire la verità, Parenzo, in contraddizione netta col nuovo corso molto salviniano. Molto, in grande contraddizione. Secondo me Salvini non ascolta la sua radio. Poi peraltro fammi dire che a quel signore che dice che io odio gli italiani o sono anti-italiano, io non odio nessuno, ma sicuramente non appartengo a quella gente lì. Quando mi dice che io non... Ma perché non devi rispondere a un ascoltatore di Radio Padania? Non ho capito. No, cioè, questo è vero. Ma perché? No, è vero. Cioè, no, è vero. Bravo, questo scusa, ti avete veramente ragione. Sono pagato troppo poco per rispondere a uno spettacolo. Anche bravo. A un ascoltatore di Radio Padania trasmesso dalla zanzara. Ma perché devo rispondere? Hai detto una cosa molto giusta. Perché devo rispondere? Dai. Bravo. Benedetta da Milano, vai. Benedetta da Milano. No, è giusto. Perché io non devo rispondere a quel cattino miserabile. Cioè, buonasera. Benedetta. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Buonasera, volevo dire una cara, cosa. Grazie per aver chiamato. Io sto della maggioranza silenziosa. Bene, ottimo, ti sostengo. Volevo dire una cosa. Ma si capisce già da, anche dall'approccio del ma non è vero, ma chi te l'ha detto? Dai. Volevo dire una cosa rispetto a Rimini, Cruciani. Al ragazzo che hai chiamato prima, tu hai detto il fatto che io abbia citato il titolo di Libero non vuol dire niente perché la ragazza se ne frega di queste cose. E ti volevo chiedere come fai a saperlo, visto che non sei una donna e non sei lei, come si sente una donna dopo un abuso? A parte che gli abusi non ha subiti solo la donna, anche la trans, eccetera, eccetera. Ma infatti, anche se allora, hai detto la trans. I dettagli erano necessari e sono necessari in questo caso. Rispetto ad altre vicende, i dettagli si sono resi necessari per far capire a tutti la brutalità dello stupro, la ferocia di quello che è accaduto, la ferocia di quello che è accaduto, e in questo modo è serviva dire la doppia penetrazione. Guarda, in tutti i casi di cronaca, lasciamo perdere i termini, sono importanti i termini, il titolo doppia penetrazione è la rappresentazione di quello che c'è nei verbali della ragazza, e poi della trans. È una scelta citarlo, però. È una scelta per far capire la brutalità di una roba. Questo è il punto. Ma non si era capito, chi te l'ha detto? L'hai capito tu, e magari come molta mai gente. Non si è fatto anche in altri casi. Ma si fa, perché sì. I protagonisti sono dei ma neri. Questa è una tua come supposizione, mai? Questa no, è una tua. No, non è una mia nei supposizione. Come mai? Ma non è così. Come mai in tutti i casi mi sembra gli stupri che diventano anche un fatto politico perché commessi in questo caso, certo, no, ecco furbetto, no, ma certo, non c'è dubbio, il furbetto di perché radio, furbetto di perché parte. Furbetto, scusa, ma non c'è niente di strano qui, che un caso di cronaca qui. Diventi un fatto politico, eccolo, non c'è niente qui, di strano radio, ma che dalla vostra radio. Radio, ma mi sembra una cosa normale che diventi un fatto politico. La musichetta anche sotto, collegati con un ma qual è il problema, non ho capito, ma qual è il problema, non ho capito qual è il problema. Io il problema, scusami Cruciani, il problema è che io da donna tu hai detto non c'entra niente la doppia violenza, è una doppia violenza. Ma perché quale sono doppia violenza? Ma, sì, certo. Sono dei ma figuriamoci se quella ragazza polacca sta a pensare al titolo stai? Di Libero o della Verità stai? O di un altro giornale, ma dai, su di quanto si risente sbattuta in prima pagina. Guarda, quando legge innanzitutto queste cose. Tu non sei l'interprete della ragazza polacca stuprata, lascialo dire a lei se si è sentita indignata o si è indignata per quella frase là. Con altre donne abusate, chiedi se si sono sentite abusate. Ma cosa c'entra? Mica è la loro violenza in questo caso, il titolo non l'hanno fatto su di loro, no? Cosa c'entra? È qui che ti sbagli. Senti, anche se Benedetta, non è la il punto violenza, fondamentale, il punto fondamentale è che mettere in quel titolo quello che è accaduto è la pura rappresentazione della realtà. Punto e basta. Tu, siccome non sei l'interprete né delle donne, al massimo rappresenti te stessa. Al massimo rappresenti te stessa. Al massimo. Ha detto una cosa giusta. No, ma per carità, ma secondo lei non bisognava farlo? Va bene, ma qual è il problema? Io mica ho detto che non bisognava mettere quello in quel titolo. Ma non sarebbe neanche da discutere. Non c'è neanche. Ma ragazzi, ma perché siete così perfettini? Ma qual è il punto fondamentale? Ci sono dei giornali che sono molto più crudi, molto più tra virgolette veri di altri, che alcune parole le nascondono. Lì però, allora chiudete quel giornale lì. Chiudete quel giornale. Avanti, chiudete quel giornale. Condannatelo. Ammazzate le persone che lo dicono. Ma siete matti, ragazzi. No, ma chi ha ammazzato? Non ci ho mai detto niente. Biasimiamo un modo biasimiamo, di fare biasimiamo voi biasimate esprimete disappunto esprimete disappunto dai su ciao. Allora, abbiamo con noi il mitologico Mario Tozzi. Ciao Mario, come stai? Buonasera, ciao a tutti. Ragazzi, allora, io voglio dirti una cosa, caro Mario. Sai che cosa è successo nei giorni scorsi? Ma è bello questo albergo di Camoglia, amico mio, vero? Dove siamo? È ottimo. Mamma mia, siete due personaggi snob, al soldo dell'intelligenza italiana, contro il popolo e la gente vera. C'è la gente di strada. Pagati da chissà quale organizzazione? Allora, vi leggo il titolo di una notizia di oggi. Macelleria presa d'assalto dagli animalisti, scritte sui muri con lo spray e con le minacce. È successo a una macelleria che tanto verrà premiata o parteciperà al grande concorso per la migliore macelleria italiana. Scritte in rosso sui muri, sulle insegne e sui vetri. Era tutto pronto per l'inaugurazione della nuova macelleria su Maria della famiglia La Ganga, dove cavolo è, a Grosseto. Scritte offensive, firmato Animal Front Liberation. Allora ragazzi, queste cose non sono cose nuove. Le minacce, hanno scritto obitorio, morte, minacce di morte, crepa, eccetera eccetera. Allora non vabbè, è la prima. Mi pare troppo. Ti pare troppo in che senso, scusa? Nel senso che mi sembra veramente, cioè, questi sono dei folli, io non sostengo in nessun modo. Però tu sei uno di quelli convinti che la carne distrugga il pianeta, cioè che la produzione di carne. No, io una cosa dico questo, che la produzione di carne in maniera intensiva come facciamo noi, ma non lo dico io, lo dicono tanti scienziati, è la prima responsabile dell'incremento della temperatura della Terra, più del traffico, veicolare. Il 18% è uno degli elementi che provocano inquinamento. Ma il mondo riesce, come dire, in qualche modo a rientrare da questa cosa qui? No, ti spiego perché no. Perché non soltanto c'è questa cosa sul clima. Ma tu la mangi la carne o no? No, poca. Io sono vegetariano, ma veramente capita occasionalmente. Però dicevo. Che vuol dire? Sei vegetariano, ma ogni tanto mangi la carne? No, può succedere. Io sono un vegetariano, ma non un integralista. Non mi metto lì a fare combattimento. Ti invitano a casa, ti offrono quello, non lo sanno, che fai? Non faccio queste cose, però voglio dire che non soltanto c'è questo impatto sul clima, ma anche tutto quello che concerne la carne comporta spreco di acqua, spreco di territorio, addirittura si taglia ormai. Perché la spreco? Utilizzazione di acqua, spreco? Perché tu con quell'acqua, per portare una vacca a maturazione, ci vuole tanta acqua per far galleggiare un incrociatore. Benissimo, tanta acqua, e allora qual è il punto? Ma chi te l'ha detto? Ma non è vero, l'acqua sulla terra si conta. Si misura, te lo dico perché tu potresti più ho capito ragazzi, ma voglio dire scusa, lo dico per chi ci ascolta, stiamo parlando con allora Tozzi, fosse non è uno di questi idioti che ma fosse così, fosse Mario, scusami, fosse così Mario, noi saremmo sull'orlo del disastro, ma non è vero, ma tante volte l'abbiamo detto, non è vero. Ma questo sai perché l'uomo ha sempre avuto la possibilità e la capacità di mutare, soprattutto quando è sull'orlo del trauma, i suoi comportamenti. Nel caso della carne, parliamo dei bovini, 1 miliardo e 400 milioni di bovini, tu per allevarli gli devi dare da mangiare qualcosa. Ottimo, o gli dai l'erba, però questa gliela puoi dare poca perché ormai è rimasto poco territorio, oppure gli dai il grano turco, cosa che il bovino normalmente non mangerebbe, dunque per finirlo prima gli dai qualche cosa di più energetico, ma così facendo lo sottrai a chi potrebbe mangiare direttamente quel mais o quell'altro materiale. Ma non è così automatica la cosa, dai, su, ma non... sì che è automatica, ma non è vero, poi scusa, tu guardati bene, ti sembri un carnivoro te, guarda che canini che c'hai, cioè, l'uomo non è carnivoro secondo te? L'uomo come genere non è carnivoro, nasce come le altre scimmie, ma non è, anche questa è una è una falsità, no, questa qui. Qua è una, falsità? È una falsità che l'uomo non sia onnivoro, che non nasca come onnivoro o come onnivoro, è una delle più grandi falsità. Ma non è vero, homo è parente stretto degli altri primati, e gli altri primati consumano occasionalmente proteine animali o quando trovano qualcuno morto, infatti l'uomo all'inizio si cibava dei carogne, oppure mangiano insetti, ma lo fanno occasionalmente. La sua dieta è soprattutto vegetariana, tant'è ma vero non che è vero. Un intestino di 9 metri, se no ci avresti un intestino di 3 metri, ma dai, come la carne è tossica, ma io, per 50 anni che abbiamo fatto, per 100 anni, per 200 anni, no, che abbiamo fatto di milioni di ma anni, che abbiamo però. Fatto per milioni di anni che abbiamo mangiato, abbiamo sbagliato, dai, su. Ti spiego che noi all'inizio eravamo prede, noi venivamo predati dalle, come no, come in altre scimmie venivamo predati dalle tigri dai denti a sciabola, per esempio. Piano piano ci siamo evoluti, quella è la nostra evoluzione, mica la sto contestando, dico semplicemente che nasciamo come genere non carnivori, nasciamo vegetariani come le scimmie, perché mangiavamo così è stato. Ma che vuol dire? Ma prima eravamo in un modo, poi a un certo punto abbiamo cominciato a mangiare carne, va bene così, ragazzi. Però non è stata un'evoluzione strettamente biologica. Viva la carne, viva la carne, da mangiare con moderazione, ma viva la carne. Senti, allora, un'altra cosa, ma è vero che tu sei a favore, se uno vuole con moderazione, se no uno si abboffa di carne, va bene lo stesso. Dimmi una cosa, è vero che tu sei a favore del fatto che dobbiamo accogliere i migranti climatici? No, io dico questo, che nei prossimi, entro il 2035, tu avrai 250 milioni di migranti per il clima che è cambiato. Ottimo. Dunque, è molto difficile che tu possa dire a questi, come spesso si dice, vi aiutiamo a casa vostra, perché la casa loro è il deserto ormai, e quello così ce l'abbiamo noi, dobbiamo, non loro. Ma che noi? Dobbiamo accogliere i migranti climatici. Sarà questa nostra nuova figura di migranti. Cioè, allora, secondo lo scienziato Tozzi, dobbiamo accogliere pure i migranti climatici. No, pure. Ma scusa, mettiti un attimo al posto loro, tu vivi in una zona predesertica, ti diventa ancora ma più dobbiamo alta, sbarrare, mezzi, ma dobbiamo sbarrare le frontiere, dobbiamo chiudere col chiavistello ma homo è tale in quanto migrante, gli uomini migrano dall'inizio della loro storia, hanno fatto sempre solo quello. Ma le tue migrazioni sessuali invece come vanno? Sei sempre appassionato? Siamo, io ormai sono, ho una certa età, lo sai che faccio quasi 58 anni, quindi ormai sono... Beh, a 58 anni, uno... Mamma mia, ma stai in una forma splendida, io non ci arriverò mai così. Sembro tuo padre. Scusa, mi hanno detto che sei una nuova fidanzata, quanti anni ha questa nuova fidanzata? No. Sei fidanzato o no, allora, Tozzi? Allora... qui andiamo nelle cose personali, assolutamente voglio... sì. No, quello che è interessante, scusa, volevo chiudere quel discorso, non è che li devi accogliere per forza, non li devi accogliere, è che sarai obbligato a farlo perché la pressione è talmente tanto forte. Ma quando mai? E che farai? Ma non è vero, climatico. Ma sono le previsioni catastrofiche di Tozzi che non si sono mai realizzate su nessun terreno, su nessuna cosa. È il catastrofismo di Tozzi che non si è mai verificato. C'è nulla si è verificato di tutto il catastrofismo mondiale. Ti salveremo, non ti preoccupare. Vabbè. E rassegnati a fare questa trasmissione. Tra 10 anni ci saranno dei senegalesi e saremo ciao, solo Mario. Contenti. Ciao. Voglio sentire però un signore che si chiama Olivier da Milano. Poi cominciamo a discutere, torneremo a discutere di queste cose. Vai, Olivier, vai. Olivier, dimmi. Pronto? Dimmi. Salve signor Cucciani, io telefonavo per protestare sulla faccenda del Congo. Che il Congo? No. Ho letto dei dati dell'ONU. Sì, di una... le ricordo che è un paese dove avvengono stupri di gruppo. È in guerra. Il centro mondiale, che me ne frega, il centro mondiale degli stupri. Il centro mondiale degli stupri. I criminali di guerra che sono va bene, stati condannati del tribunale dell'AIA. Il allora, centro mondiale degli stupri, non lo dico io. La capitale mondiale degli stupri. Arrenditi di fronte alla realtà. Parlare, non c'è tempo, non domani, ti, parlare, domani so. Ti richiamo, Olivier, ti abbraccio fortissimo. Che sei congolese tu? Io sono italiano di colore, ma e sto dicendo che in Congo c'è una guerra civile in atto con un milione di morte. Un milione la di morte. La capitale mondiale degli stupri. Con delle bambine che delle arrenditi. Bambine arruolate sopra degli eserciti. Au revoir, la capitale mondiale degli stupri. Au revoir. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.